You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? E allora sediamoci a tavola anche questo pomeriggio, prepariamo con voi delle ricette che possano parlare dell'Italia che cambia. Buon pomeriggio ancora una volta da Valentina Furlanetto per questa nuova puntata di Indovina chi viene a cena, che prende spunto appunto dal film che stiamo ascoltando in sottofondo, un film antico ormai, degli anni 60. I temi però, quello delle coppie miste, dei pregiudizi razziali, dell'integrazione fra culture, purtroppo restano attuali. Noi pensiamo che si possano tuttavia superare. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani. Io do il buon pomeriggio a un regista, quindi oggi cinema, Haider Rashid, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie per essere con noi, è in sala in questi giorni il suo nuovo film Sta per piovere, che andremo senz'altro a vedere. Che cosa ci cucina, Rashid? Vi cucino un dolma, che è una ricetta tipica irachena, che viene poi interpretata a seconda delle diverse città in maniera diversa. Una ricetta irachena, perché svegliamolo subito, Haider Rashid è nato nel 1985 a Firenze da padre iracheno e madre italiana, no? Esattamente, sì. E quindi una fetta della famiglia è fiorentina, diciamo italiana, e l'altra è irachena, quindi immagino a casa sua ricette irachene e magari molto toscane, così? Sì, c'è un misto, diciamo che mio padre è anche riuscito a imparare molto bene a cucinare piatti italiani, però insomma quando prepara i piatti iracheni è un po' un evento, arrivano tutti gli amici di famiglia, è sempre una grande festa, anche perché c'è una tradizione dietro di preparazione molto lunga, specialmente per questo piatto. Questo piatto quindi è un piatto speciale perché? È un piatto speciale perché richiede una certa attenzione, è praticamente una selezione di verdure che comprende zucchine, pomodori, cipolle, foglie di vite, che vengono preparate con un ripieno di riso e carne. Questo però richiede attenzione perché specialmente le cipolle, per esempio, richiedono una certa attenzione per separare ogni diverso strato della cipolla, poi la foglia di vite cresce solamente in alcuni periodi. Però questa è una ricetta che spesso si ripresenta in tanti paesi come la Turchia, ma arriva fino alla Polonia, in cui magari al posto delle foglie di vite vengono utilizzate le foglie di cavolo. Però appunto il tipo di dolma che fa mio padre è quello di Baghdad. Quindi è un piatto iracheno. Noi dell'Iraq purtroppo in questi anni abbiamo sentito parlare soltanto e soprattutto per la guerra che c'è stata. Voi come l'avete vissuta, lei in particolare? Ma sicuramente è stato un periodo difficile, continua ad esserlo, perché l'Iraq è entrato in una decade di violenza, di estrema povertà, e purtroppo siamo arrivati al punto in cui, nonostante ci fosse un grande odio verso il regime di Saddam Hussein, le circostanze e la situazione sociale erano meglio in quel periodo. La nostra speranza era che una volta deposto il dittatore si potesse avere una crescita del paese, ma così non è stato e purtroppo c'è una situazione molto difficile, molto tragica, e speriamo che ci sia un ritorno a un benessere, perché veramente l'Iraq ne ha bisogno, e che non ci sia solamente come ormai c'è da 40 anni lo sfruttamento di un popolo che non ne può veramente più di guerra e difficoltà. Suo padre come mai era venuto in Italia? Mio padre è scappato dall'Iraq nel 78 perché era dissidente del regime ed è scappato pochi giorni prima, in cui probabilmente sarebbe stato catturato dal regime, quindi torturato, e non sappiamo che fine avrebbe fatto. È in esilio da 34 anni, però abbiamo ancora famiglia lì che ogni tanto riusciamo a vedere incontrandoci fuori dall'Iraq. E però mio padre appunto è arrivato in Italia nel 78, si è integrato perfettamente. C'era un'atmosfera di grande accoglienza in quel periodo in Italia. Forse c'erano anche pochi stranieri. C'erano pochi stranieri, ma c'era anche una sensazione di comunità che un po' si è persa in Italia. C'era, forse l'Italia era un pochino meno avanzata, tra virgolette, però c'era ancora quella sensazione di poter accogliere, come c'è ancora in alcune parti, in una parte della popolazione italiana. Però c'era meno odio razziale, meno xenofobia, e quindi questo ha permesso a tanti esuli, tanti immigrati, di potersi integrare e poi costruire famiglie felicissime come la mia. E lei, da regista, da intellettuale, si è sempre interrogato, e tutta la sua opera, che va da un documentario Between Two Lands a lungometraggio, a quest'ultimo film in sala Sta per piovere, si aggroviglia intorno a questi temi, no? Dell'identità, del fatto di essere stranieri in patria, dell'appartenenza, dell'immigrazione. Sì, diciamo che la mia condizione mi ha sempre spinto ad investigarla. Essere di origini miste, venire da diverse terre, da diverse culture, credo sia un po' anche il tema del momento, appunto, anche in Italia. E per me è sempre stato fondamentale cercare di capire quale fosse la mia identità, capire dove dovessi appartenere. E probabilmente la risposta che sto cominciando a darmi, anche grazie al mio lavoro, è che è fondamentale accettare entrambi i luoghi, entrambe le culture, e rendere questi due elementi una ricchezza piuttosto che una cosa, un qualcosa in meno. E nei miei lavori, nei miei film, è sempre stata una costante, come ha detto lei, però con ricette diverse, appunto. In alcuni casi si parla di esuli iracheni, in altri casi, come Sta per piovere, si parla di un ragazzo che è italiano al 100%, si sente italiano, ma che lo Stato non riconosce come cittadino. E sentiamo quindi proprio il trailer del film. Buonasera, ho 26 anni, sono nato e cresciuto a Firenze, e da come parlo, dal mio accento, avrete capito che questa è la mia città. Quando avete fatto l'ultimo rinnovo del permesso di soggiorno? 2 anni fa. La crisi c'è, non ce la siamo inventata noi. 11 mesi che non si riscuote, ragazzi. Datemi mezza lira per campare. Tra 4 giorni, io e la mia famiglia dobbiamo lasciare l'Italia e tornare in Algeria. Siamo stati espulsi. Respinti. E tornare è un termine che io non comprendo. Perché io in Algeria non ci sono mai stato. Se non ha un lavoro, non ha diritto al permesso di soggiorno. Tornate nel vostro paese di merda! Tornate nel paese! Non è possibile che ci chiedano di andare via. Questo è il nostro paese, cazzo! A quante cose dobbiamo ancora rinunciare? A quante possibilità? A quante prospettive? A quanti sogni? Noi, ragazzi della seconda generazione, italiani di seconda categoria, non italiani, siamo di colori, religioni, idee diverse, ma siamo tutti uniti in un profondo dolore perpetrato da azioni retrograde, razziste, ingiuste. Mi chiamo Said Mahran e sono italiano, come voi. Quello che parla è Said, questo giovane nato e cresciuto in Italia da genitori algerini che studia, lavora come panettiere part-time e non può più rinnovare il permesso di soggiorno, ha ricevuto un decreto di espulsione ed è il protagonista appunto di Sta per piovere, la pellicola adesso al cinema di Haider Rashid, che è il nostro ospite. È una storia nella quale probabilmente moltissimi ragazzi che vivono in Italia, molti italiani, si ritroveranno. Sì, è una storia molto comune purtroppo, una storia che molti non conoscono e che noi stiamo cercando di raccontare e che comunque sta tornando un po' alla ribalta con il dibattito che si è riaperto sullo Ius Soli, ed è una storia fondamentale credo per il futuro di questo paese, perché credo che sia un passo veramente di civiltà riuscire a riconoscere che dei ragazzi nati e cresciuti qui, che si sentono totalmente italiani, possano avere un semplice riconoscimento. È proprio un piccolo passo di civiltà che credo sia necessario fare. E adesso parleremo tra poco appunto di questo dibattito dello Ius Soli, anche delle prospettive, perché poi è stato lanciato giustamente dal ministro per l'integrazione Chieng da poco, poi è stata zittita subito dopo e quindi probabilmente finirà così un po' in un cassetto in questo momento di emergenza anche per altri temi economici. Rashid, questo film che esce adesso si rivolge a un pubblico italiano di seconda generazione? Qual è il pubblico a cui lei ha pensato quando l'ha scritto, l'ha girato? Ma questo è sicuramente un film di denuncia che fa luce su un problema di una parte della popolazione italiana, però allo stesso tempo ha un ritmo molto attivo, molto costante, non è il classico film di denuncia a cui magari una parte del pubblico preferisce non guardare. È un film che mantiene una tensione di un certo tipo, perché era importante per noi raccontare una storia che possa raggiungere il maggior numero possibile di persone, anche creando un impatto emotivo di un certo tipo. E allo stesso tempo è un film che, nonostante sia italiano e racconti una storia italiana, anche nelle proiezioni che abbiamo fatto all'estero, come per esempio al Festival del Cinema di Dubai, ha avuto un riscontro molto, molto grande e molto emotivo, perché è una storia che abbiamo cercato anche di mantenere aperta. Non è una storia che entra solamente nella questione giuridica, ma anche nella questione emotiva, nella questione di un rapporto di amore tra Said e Giulia, che è la sua ragazza, di un rapporto di affetto tra Said e suo padre, e che tocca il tema dell'identità, che non è solamente un tema che coinvolge gli immigrati, ma è anche un tema che coinvolge molti italiani che magari hanno avuto parenti che si sono trasferiti all'estero per cercare fortuna, o che dal sud Italia o da altre regioni si sono spostati al nord, come è storia insomma dell'Italia, perché l'identità è una cosa che ci coinvolge tutti, la questione dell'identità. Mia mamma è calabrese e da ragazzina si è trasferita a Firenze per studiare ed ha esattamente si pone esattamente le stesse domande sull'identità di quelle che si pone mio padre. Sì, in effetti è la nostra storia, solo che non ce la ricordiamo, no? Poi anche nel film si parla anche di cose molto attuali, come la crisi che stiamo attraversando, perché la fabbrica in cui lavora il padre di Said entra in crisi perché si suicida il direttore della fabbrica. Insomma, una serie di tematiche molto attuali e raccontate da questa voce. La cosa così curiosa alla radio, chiaramente, è che non si vede Said in faccia, si sente questa voce con accento fiorentino. Assolutamente, Said, come ho detto, è italiano, fiorentino, ed è interpretato da un attore che è Lorenzo Baglioni, che è italiano al 100%. Abbiamo fatto questa scelta per sottolineare ancora di più l'italianità, tra virgolette, di Said. Trasmissione canzone con Haider Rashid, regista del film Sta per piovere, adesso nelle sale italiane, un film che parla dei ragazzi di seconda generazione alle prese con una burocrazia legislativa retrograda e insomma con la difficoltà di vedere anche confermata dalle carte l'identità italiana che è nei fatti. Allora, parlavamo di Ius Solis, c'è questo dibattito in corso, no? In realtà è stato molto sopito questo dibattito lanciato da Ministro per l'Integrazione Chieng sullo Ius Solis. Lei intanto è d'accordo su questa proposta che in realtà in Europa è accolta soltanto in Francia, però vige negli Stati Uniti, in Canada e in molti altri paesi. Ma io sono assolutamente d'accordo e c'è una piccola cosa da notare sulla proposta di legge. La proposta di legge non dice che chiunque può venire e fare figli in Italia automaticamente gli verrà data la cittadinanza. La proposta di legge dice che i figli di immigrati con regolare permesso di soggiorno, regolarmente residenti in Italia da almeno 5 anni, se nati sul territorio italiano saranno italiani. Che mi sembra una cosa non così assurda, sinceramente, e purtroppo spesso viene fatta appunto opera di xenofobia dicendo chiunque verrà e l'Italia diventerà una grande sala parto. Le seconde generazioni spesso, non sempre, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però spesso hanno anche una marcia in più perché conoscono anche magari le difficoltà, i motivi per cui i genitori sono arrivati in Italia e quindi vogliono fare di più. Questa immagine dell'immigrato che viene e sfrutta e succhia denaro e sangue al paese è un'immagine che deve essere tolta, perché la maggior parte degli immigrati vengono perché vogliono semplicemente un futuro migliore, come i nostri parenti negli anni passati, ma tuttora purtroppo si trasferiscono negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra, in Australia per trovare fortuna, per avere una vita nuova. Ci deve essere un nuovo modo di parlare dell'immigrato. Io ho apprezzato molto le parole del ministro Chieng quando ha parlato dicendo sono nera, non sono di colore, perché dire di colore prescinde significa che c'è un colore che è un non colore, quindi che noi siamo giusti e c'è qualcosa di diverso. È un termine pregiudiziale e razzista. Sentiamo allora proprio le parole del ministro. Quando uno vive qui e ha un colore di pelle diverso, non può dire di non aver mai subito discriminazione. E sicuramente mi hanno toccato, però credo che non è quello che mi sofferma. E quello che guardo è l'intelligenza delle persone, la capacità di una persona a poter dialogare. Io dico subito che io sono nera e sono italo-congolese e tengo a sottolinearlo. Sono italo-congolese perché appartengo a due culture, due paesi che sono dentro di me e non potrei essere interamente italiana, non potrei essere interamente congolese. In tanti posti ho visto passare che sono di colore. Io non sono di colore, io sono nera. E questo è importante dirlo. E lo ribadisco con fierezza. Eccola qua col suo tono pacato il ministro Chieng, che abbiamo invitato e speriamo di avere presto ospite, perché appunto è proprio l'ospite ideale per la nostra trasmissione in italiana con radici altrove. E anche lei diceva appunto io sono nera e teneva a sottolinearlo. Haider Rashid, il film da cui noi prendiamo spunto, a cui abbiamo rubato il titolo Indovina chi viene a cena, è un film degli anni 60, un film proprio molto antico, insomma, però alcuni temi purtroppo restano attuali. Questo non è strano? Ma l'Italia è da questo punto di vista indietro esattamente di quei 50-60 anni. Sentire le parole del ministro, appunto dette da un ministro della Repubblica Italiana, così accurate, così pacate e così articolate, è una cosa fantastica, perché questo è il futuro del paese, come di tutti gli altri paesi dell'Europa, come degli Stati Uniti, come dell'Australia, in cui non si identifica la persona a seconda del colore della pelle o della provenienza, ma del valore della persona stessa. L'altro dibattito molto triste di questi giorni è stato intorno a questa persona proveniente dal Ghana che probabilmente disturbata, fortemente disturbata, ha compiuto degli atti molto violenti. Non le ha dato fastidio che invece di parlare di una persona appunto fortemente disturbata si sia sottolineato appunto il colore della pelle, la provenienza, il fatto che fosse qui senza permesso di soggiorno, però in realtà aveva fatto una richiesta d'asilo, era in attesa del ricorso, quindi insomma una situazione complicatissima. Però al centro, l'ha detto anche una persona, non certo un estremista, un politico dell'area di Monti, una persona comunque disturbata, questo è il nodo, no? È un delitto una persona disturbata, è una persona che io non conosco esattamente la storia, ma probabilmente ha anche sofferto da una condizione di esule, assolutamente ingiustificabile l'atto. Però utilizzare un atto così immondo, così inumano, per fare opera di xenofobia, sempre dalle stesse parti politiche, che oramai hanno anche un elettorato molto più ristretto e che ancora non hanno compreso che la xenofobia è una forza che non ha futuro. Tornando a temi più leggeri e tornando al film dai cui siamo partiti, perché questo titolo Sta per piovere? Ma Sta per piovere è un titolo che mi porto dietro da una decina d'anni, che ho sempre voluto utilizzare ma non ho mai avuto occasione appunto di usare. È un titolo che è simbolico, ovviamente, dà un senso di imminenza, di qualcosa che sta cambiando. Dopo la pioggia c'è sempre un rinnovamento, di solito torna il sole. Adesso ci rimettiamo ai fornelli, siccome stasera abbiamo appunto a cena Haider Rashid, le abbiamo chiesto una ricetta, se avete sentito l'inizio, ma adesso vi diamo i dettagli in questa scheda. Dolma. Ingredienti: foglie di vite, una cipolla, 200 g di riso, 150 g di uvetta lavata e asciugata, 100 g di carne di agnello macinata, 30 g di pinoli, un cucchiaino di cannella macinata, succo di un limone, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 4 decilitri di acqua bollente. Sbollentate le foglie di vite per 10 minuti in acqua salata, raffreddatele con acqua fredda e poi asciugatele. In una padella con l'olio fate appassire la cipolla e poi rosolate bene la carne. Unite riso, il succo di mezzo limone, i pinoli, la cannella e l'uvetta. Fate cuocere per bene, mescolando di frequente. Unite l'acqua e fate cuocere a fuoco lento. Il tutto deve risultare molto asciutto. Disponete l'impasto così ottenuto nelle foglie di vite e poi chiudetele a involtino. Mettete gli involtini a cuocere in una padella con un filo d'olio e il succo di mezzo limone. Coprite la pentola con un coperchio. Fate cuocere il tutto per un'ora e servite. La puntata termina qui. Ringrazio il nostro ospite Haider Rashid. Buon appetito e buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie mille per l'ospitalità. In regia Pietro Lacorte, mi trovate anche su Twitter @Valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, in cucina come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.